Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salvadanaio. Caro Mutui, che fare? Quante volte proprio da questi microfoni ci siamo fatti, vi siete fatti questa domanda, domanda che è al centro dei convegni, titoli di giornali, incontri, dibattiti pubblici e dibattiti familiari. E intorno a questa domanda ruota anche l'iniziativa del Consiglio dei Notai di Milano, Comprar Casa Senza Rischi. In cosa consiste questa iniziativa? Dal 3 al 14 novembre 240 studi notarili di Milano si metteranno a disposizione per ricevere tutti coloro che hanno bisogno di una consulenza sulla compravendita immobiliare e sulla stipula del mutuo. Questioni che riguardano milioni di famiglie, tra quelle che devono rinegoziare il mutuo già sottoscritto in passato e non sanno ancora bene come muoversi, fra le opportunità che oggi anche la legge propone, e quelle che invece devono comprar casa e non sanno anche in questo caso bene come orientarsi. Magari sono in confusione perché non hanno ben capito che oltre al prezzo pattuito per l'abitazione del loro sogno ci sono anche delle tasse da pagare, quindi insomma molto spesso non si fanno bene anche i calcoli preventivi dell'operazione che porta all'acquisto della casa dei nostri sogni. E allora oggi di questa iniziativa parleremo, come si svolgerà, ma soprattutto risponderemo alle vostre domande. E come sempre i vostri quesiti li girerete oggi, li potrete rivolgere direttamente a Domenico De Stefano, che è il segretario del Consiglio Notarile di Milano. Dottor De Stefano, benvenuto a Salvadanaio, ancora una volta con noi. Forse l'ultima volta che era venuto da noi era stato proprio l'anno scorso in concomitanza con la medesima iniziativa? Sì, che mi ha portato fortuna, perché l'anno scorso ero segretario e quest'anno sono presidente del Consiglio. Ha fatto carriera, sì. Allora mi scuso perché così proprio in diretta abbiamo chiacchierato tanto a lungo prima della trasmissione e di questo passaggio c'era sfuggito, però insomma questo è anche il bello della diretta. Allora, le vostre domande al dottor Domenico De Stefano, presidente del Consiglio Notarile di Milano. Prima di sentire la nostra scheda, dottor De Stefano, adesso spiegheremo in cosa consiste. È ancora limitata la Lombardia? Non è limitata la Lombardia, sono iniziative che i vari organismi territoriali propongono in diversi periodi dell'anno, in momenti diversi e in fasi diverse. Quindi la nostra è del distretto di Milano, ci sono state e ci saranno altre iniziative in Lombardia, ci sono state e ci saranno altre iniziative in altre regioni che naturalmente sarete sempre pronti a comunicare tempestivamente al pubblico. Magari potranno monitorare anche la situazione sul territorio proprio sul sito internet www.comprarecasasenzarischi.it, dove ci sono tutte le domande più diffuse intorno alla problematica della compravendita immobiliare e anche in questo periodo soprattutto alla rinegoziazione del mutuo. Tutti i temi che avremo modo di sviluppare quest'oggi. Se non ci volete chiamare in diretta, avrete modo di scriverci al 349-238-6666. Un'occhiata alla borsa questa mattina. Quest'oggi insomma attiriamo un sospiro di sollievo, tra l'altro vedo che è già cambiata anche l'aria a Francoforte, che dopo una mattinata di un po' più sofferenza rispetto alle altre piazze adesso ha riagguantato il territorio positivo ed è in progresso dello 0,3%, nettamente distanziate invece Londra più 5, Parigi più 6,78%, Milano più 7,07% sull'S&P MIB. Quindi Europa di slancio grazie a quello che è successo ieri a Wall Street, Dow Jones più 10,88% in un mercato che tra l'altro attende, visto che anche questo tema lo sfioreremo quest'oggi, la nuova riduzione del costo del denaro negli Stati Uniti e settimana prossima una pressoché certa riduzione dei tassi di interesse arriverà anche nell'Eurozona, quindi anche sulla scia di questa aspettativa il mercato torna a crescere abbondantemente e a recuperare le perdite dei giorni scorsi. Acquisti e rialzi a due cifre per Tenaris a Piazza Affari più 12,39%, Intesa più 10,25%, Unicredito più 9,51%, ieri titoli bersagliati dalle vendite oggi tornano invece al centro degli acquisti. Impregilo più 9%, Monte dei Paschi più 8,90%, Eni più 8,52%, Ubibanca più 8,44%, Banco Popolare più 8,40%. Insomma questa è la tendenza di oggi, un recupero vistosissimo di titoli del comparto bancario. Fra i titoli che guadagnano meno troviamo Snam Rete Gas più 0,48%, Fondiaria più 0,7%, Mondadori più 1,22%, Terna più 1,61%. L'euro riacciuffa fa quota 1,28 sul dollaro. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi: compriamo casa senza rischi. Comprar casa e accendere un mutuo nonostante la crisi può essere conveniente oggi più di ieri. Con i ribassi sul mercato immobiliare e l'annunciato nuovo taglio dei tassi da parte della BCE, anche il costo del mutuo dovrebbe ridimensionarsi. E se l'Euribor a tre mesi ha raggiunto il record di 5,39% lo scorso 8 ottobre, toccando il massimo dal 1994, ora è già sceso a quota 4,86%, facendo ben sperare anche per il futuro. Inoltre, grazie al protocollo firmato da ABI e ANIA, i mutui dovrebbero liberarsi pure dal vincolo delle polizze assicurative, da molti ritenuto uno dei maggiori ostacoli alla portabilità, insieme alla spesa notarile. E proprio i notai si sono resi protagonisti dell'iniziativa Comprar Casa Senza Rischi, offrendo appoggio e consulenza a chiunque si appresti a comprare casa o a rinegoziare il mutuo. Affidarsi ad un notaio fin dal momento dei primi pagamenti, della firma del compromesso o della scelta del mutuo è infatti garanzia di un'informazione corretta e trasparente, molto utile per un acquisto senza rischi. E non tutti sanno che la consulenza preventiva è compresa nel costo dell'atto notarile. Sul sito www.comprarcasasenzarischi.it si possono poi confrontare gli effetti sul proprio mutuo della rinegoziazione e della surroga per trovare la soluzione migliore. Per quanto riguarda, nello specifico, le spese notarili, la rinegoziazione diretta con la propria banca è spesso la soluzione più conveniente, poiché è generalmente priva di costi. Anche la surroga di norma non dovrebbe prevedere la presenza del notaio, ma alcune banche possono richiederla. Ci sono però offerte a zero spese, quindi basta guardarsi intorno. La sostituzione a conti fatti risulta la scelta più costosa, con un conto che può arrivare fino a 4.000 euro tra costi notarili e bancari. Infine, bisogna ricordare che il costo dell'intervento del notaio non dipende solo dalle decisioni del singolo professionista. Gli atti pubblici sono regolati dalla legge, così il notaio può intervenire solo sul proprio margine di guadagno. È comunque legittimo richiedere un preventivo. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, così come ci potete porre i vostri quesiti al 349 238 6666. Presidente De Stefano, parto subito con una domanda di un ascoltatore. Il mio costruttore ha messo una penale se non dovessi rogitare dal notaio che lui mi ha indicato. È regolare? Io questa davvero non l'avevo mai sentita. Ma dunque, non è né regolare né irregolare. È ragionevole che il costruttore accolli all'acquirente un costo modesto, però, cioè parliamo qualche centinaia di euro, ma poche centinaia di euro, per la documentazione che il costruttore deve esibire al singolo notaio. Mi spiego: se il costruttore fa 20 appartamenti e deve esibire la documentazione, dare la documentazione a 20 notai, ha un costo supplementare modesto, e quindi in questi termini si può anche giustificare questa sorta di penale. Però, visto che per definizione un costruttore lavora su centinaia magari di appartamenti, penso che se un acquirente vuole distaccarsi dal notaio generale di tutta la palazzina, forse ha anche il diritto di farlo. Ha sicuramente il diritto di farlo. Che questo sia conveniente è tutto da vedere. Un'altra cosa. È tutto da vedere, soprattutto perché ormai un intervento edificatore è una cosa molto complessa che impegna molti anni e molte operazioni. Chi segue tutta l'operazione è indubbiamente avvantaggiato nel fare le relazioni notarili successive. Quindi questa potrebbe essere notaio, posso chiamarla anche notaio oltre che presidente? Ma mi può chiamare anche per nome. Ci mancherebbe, mi è venuto così spontaneo. Immagino possa essere tipicamente una domanda che può arrivare a voi in questi giorni che vi siete mossi con questa iniziativa Comprar Casa Senza Rischi, seconda edizione, un'iniziativa che parte da voi ma che si muove anche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, con le quali avete già lavorato attivamente negli ultimi 2 anni, anche per la stesura delle guide per il cittadino mutuo informato, di cui tra l'altro nei mesi scorsi è uscita proprio la seconda edizione. Allora, Comprar Casa Senza Rischi, diamo qualche dettaglio in più rispetto a che cosa state facendo. Sì, Comprar Casa Senza Rischi è un'iniziativa che quest'anno ripete quella proposta l'anno scorso, che è quella di portare i cittadini più vicini agli studi notarili. È tradizione nella provincia andare dal notaio anche senza appuntamento. Questa tradizione si è persa nella città per mille ragioni, perché non esiste la piazza dove c'è lo studio del notaio in cui passare in città. La piazza oggi è internet, quindi noi abbiamo pensato di mettere su internet, per una città come Milano, in cui molti vengono anche a lavorare e tornano a casa la sera, mettere per la piazza di Milano 240 studi notarili a disposizione, oltre 1.000 appuntamenti. Accedendo al sito si può prenotare scegliendo l'orario e il luogo. Tra l'altro le prenotazioni sono già possibili dal 23 ottobre, tendenza avete già registrato? Ma credo che ne abbiamo già coperti oltre il 15%. Posso anche dire, senza tema di essere poi smentito dai fatti, che qualora le richieste siano eccedenti rispetto al numero, il programma informatico bloccherà le prenotazioni, ma noi troveremo il modo per dare comunque il contatto con tutti, per dare comunque un appuntamento a tutti quelli che lo chiedano. Dicevo, questa è la tecnica che si utilizza oggi per rendere più facile questo accesso. Il contatto e la consulenza preventiva è gratuita. Nel senso che si chiedono al notaio le informazioni che poi possono o non possono esitare in un atto notarile. Se esitano in un atto notarile, tanto ci sarà una parcella da pagare, perché c'è una vera e propria prestazione. Se si tratta solo di un buon consiglio, sarà un buon consiglio, come dire, a buon rendere nei confronti del cittadino. Ecco, tra l'altro ricordiamo anche per gli utenti di Milano che questa sera presenterete la vostra iniziativa presso la Sala Orlando dell'Unione del Commercio in Corso Venezia, e qui avrete proprio la possibilità, lo diciamo naturalmente ai nostri ascoltatori che abitano in zona, di sentire in che cosa consiste, ma magari vi metterete anche in questa serata a disposizione degli intervenuti, notaio. Certamente sì, la manifestazione consiste nel mettere a disposizione gli appuntamenti. Abbiamo avuto il patrocinio della regione, del comune e della provincia di Milano. Soprattutto il comune di Milano ci è sempre stato molto vicino in tutto questo, e la manifestazione comporta anche questo incontro con il pubblico, che sarà condotto da Antonio Lubrano, che tutti riconoscono e ricordano come un buon amico dei consumatori. E anche in questa occasione ci sarà la possibilità di fare domande e avere risposte. Ecco, tra l'altro poi di questo parleremo nel corso della trasmissione. Avete anche stipulato di recente un protocollo d'intesa sulla portabilità dei mutui insieme ad un gruppo di banche italiane, e non so se anche in questo protocollo c'è il suggello delle associazioni dei consumatori, notaio. Sì, è un protocollo d'intesa stipulato con i principali gruppi bancari, diciamo tutti i principali hanno già firmato, in realtà è aperto anche a tutti, a tutte le banche, anche quelle più piccole, e proseguono le adesioni da parte delle banche. È stato fatto d'intesa anche con alcune associazioni di consumatori. Alla nostra manifestazione pubblica di stasera, per esempio, partecipa Giustino Trincia di Cittadinanza Attiva, che è un amico di Salvadanaio anche molto spesso. Così come alla conferenza stampa era intervenuto il presidente di Altro Consumo, Paolo Martinello. Allora andiamo nel vivo, allora sentiamo un po', mettiamo subito alla prova il presidente del Consiglio Notarile di Milano, Domenico De Stefano, insomma quello che farà poi, che ha già fatto probabilmente per tanti mesi, soprattutto negli ultimi mesi in cui si è intensificata, come sapete bene, la corsa alla rinegoziazione del mutuo, e glielo facciamo fare anche oggi a Salvadanaio rispondendo in diretta alle vostre domande. Tra l'altro, a proposito del costo dei mutui, l'Euribor oggi segna ancora un punto a suo favore, dopo tanti mesi di sofferenza sta ancora scendendo, si è portato ai minimi dallo scorso 22 aprile al 4,83%, per cui speriamo insomma che le rate nei prossimi mesi comincino a farci respirare. Pierino dalla provincia di Como, benvenuto, prima telefonata di oggi all'800 24 00 24, eccoci a lei. Buongiorno dottore, e complimenti per la trasmissione. Dottore, io le volevo porre un problema che purtroppo, diciamo, mi sta facendo impazzire. Io nel 1989, tramite un'agenzia di viaggi, ho visto un appartamento, l'ho comprato. Un'agenzia viaggi, mi scusi, un'agenzia immobiliare? Un'agenzia immobiliare, l'ho comprato. Mi ha portato da un notaio, l'appartamento era libero da vincoli ed ipoteca. Cosa succede? Il notaio, diciamo, mi rogita, io, diciamo, nel 2003 scopro, diciamo, perché appunto, diciamo, qualcuno mi ha portato in tribunale, che il notaio in conservatoria dello Stato aveva sbagliato, ma aveva messo a me che vendevo e la persona che mi vendeva che comprava. Adesso, diciamo, siamo per vie legali, siamo in appello, perché io, diciamo, in primo grado ho vinto, diciamo, il processo. Adesso mi dica, dottore, come io, diciamo, a suo tempo avevo pagato 25 milioni cash, più la disgrazia mia che l'appartamento l'avevo pagato cash, perché se l'avessi fatto con un mutuo bancario si accorgevano di questo lapsus. diciamo, burocratici. Presidente De Stefano, abbiamo sentito, non so se l'abbiamo recuperato, il caso di Pierino dalla provincia di Como, che per vicende alterne che gli sono capitate successive alla compravendita, appunto all'acquisto della sua casa, ha scoperto che il rogito non era stato redatto correttamente e c'era stata appunto un'errata trasposizione alla conservatoria. Adesso non mi ricordo bene, non riesco neanche a riassumere. Eccolo qua, Pierino, l'abbiamo recuperata, grazie. Sì, ecco, e quindi, la conservatoria dello Stato, perché praticamente, dottore, cosa succede? Queste persone qui, l'appartamento era in vendita da 4 anni, da una persona che era, la persona era morta e aveva ereditato la figlia. Quando, diciamo, quando si sono accorti questi personaggi che c'era questo difetto di trascrizione in conservatoria dello Stato, sì, hanno detto che aveva una scrittura privata. Adesso, se c'era la scrittura privata, l'avrebbero fatto valere prima, non hanno, diciamo, aspettato 4 anni che vendeva l'appartamento. Pierino, la ringrazio. Allora, non possiamo naturalmente, ecco, entrare nel merito, no, del caso singolo. No, bisognerebbe, immagino, vedere poi tutta, ecco, la documentazione nel dettaglio, perché, i vari passaggi, certo. Anche però, perché il decorso del tempo così lungo fa presumere che la situazione sia sufficientemente complicata, tant'è che sono finiti in causa. Quello che si può dire è che i notai hanno da tempo l'assicurazione obbligatoria, il notaio è responsabile per gli errori che fa. E per i casi più gravi esiste addirittura un fondo di garanzia che copre i casi di risarcimento danni che non sono coperte dall'assicurazione. Se l'ascoltatore è in causa, purtroppo non troverà soluzione prima che la causa arrivi, che la giustizia arrivi a sentenza, certamente. Pierino, quindi questa, insomma, è la situazione, abbiamo appurato che è un po' più complicata di quelle magari più tradizionali che possono essere presentate al notaio in una fase come questa in cui parliamo oggi magari di consulenza di base, prima di partire con la compravendita. Beh, però magari è il caso di fare una serie di raccomandazioni eventualmente, notaio. Che cosa ci dobbiamo assicurare che il notaio controlli prima di partire con l'acquisto dell'abitazione? Allora, va detto che la compravendita immobiliare è una vicenda molto importante e molto delicata per la famiglia, perché la famiglia investe una parte considerevole, quando non tutti, i propri risparmi, magari passati ed anche futuri. Va anche detto che le truffe in campo, le vere e proprie truffe in campo immobiliare, sono sufficientemente rare, anche perché la trattativa è presidiata. Stanno emergendo segnali di truffe, fatti però non ai danni del consumatore bensì ai danni delle banche, e questo è un altro capitolo preoccupante, grave, sul quale si sta intervenendo per cercare di evitarle. Quindi, messa da parte l'aspetto più grave, che è quello del vero e proprio raggiro, quello a cui bisogna stare attenti nella compravendita dell'immobile è una pluralità notevole di dettagli che però si possono tradurre poi in situazioni veramente incresciose per l'acquirente. Comprar casa senza rischi è un'iniziativa del Consiglio Notarile di Milano, quindi i primi 15 giorni di novembre un bel gruppo, molto folto di notai si mettono a disposizione appunto delle famiglie lombarde per una consulenza del tutto gratuita sulle modalità di compravendita di un immobile, ma anche di stipula di un mutuo. E noi oggi abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori il Presidente del Consiglio Notarile di Milano, Domenico De Stefano, che ci ha illustrato l'iniziativa, ma soprattutto adesso sta andando con i nostri ascoltatori al concreto dei casi, che sicuramente poi quelli che sentiamo rappresentano la gran parte anche dei casi che si verificano su tutto il territorio. Allora, abbiamo altri ascoltatori? No, però eravamo rimasti in sospeso con la considerazione che facevamo prima, no? E tra l'altro, per esaudirla nel modo più esaustivo possibile, le metto insieme, notaio, una domanda di un ascoltatore che dice, insomma, ma noi di informazioni siamo bombardati, sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, quello che ci interessa capire è con il notaio come fare per risparmiare. Una compravendita da padre a figlio ci costa 3.500 euro, allora è tutta parcella, notaio? No. Quando si va dal notaio, si compra la casa, si spende un certo importo. In questo importo è compresa l'imposta di registro, che può essere fissa o proporzionale. Quando è proporzionale può essere del 3% o del 10% del valore della base imponibile. La base imponibile è un concetto un po' astratto, ma comunque non corrisponde al prezzo, corrisponde grosso modo alla rendita catastale rivalutata, con due coefficienti diversi a seconda che sia prima casa o non prima casa. Comunque c'è una parte di quello che si paga al notaio che è destinato a tassa di registro, imposta di registro. Poi ci sono una serie di altre spese, il cui importo complessivo dipende dalla situazione in concreto, ma può eccedere i 1.000 euro. Poi finalmente si arriva alla parcella del notaio che sconta delle aliquote. Naturalmente tutto è discutibile, si può sempre risparmiare. Probabilmente non c'è più un'inderogabilità della tariffa notarile, quindi si può sempre chiedere un preventivo al notaio e si può anche confrontare i preventivi. Io non consiglio di scegliere il notaio che costa 50 euro in più, semmai consiglierei di scegliere il notaio che nel colloquio preliminare ha dato maggiore disponibilità e con il quale ci si è sentiti maggiormente a proprio agio. Tanto per dare delle cifre, attorno ai 200.000 euro di prezzo, la tariffa notarile si aggira attorno allo 0,6%, 0,62% del prezzo. Bisogna anche ricordare che, non è il caso dell'ascoltatore che faceva la domanda, ma quando oltre alla compravendita c'è anche il mutuo, c'è una ci sono delle spese e c'è anche una parcella notarile. Una certificazione ulteriore che il notaio deve fare. Sì, intanto c'è un atto in più. C'è una certificazione ulteriore, c'è un'ulteriore assunzione di responsabilità e c'è una pratica che viene gestita nei confronti della banca e della quale si risponde, ricollegandosi alla domanda di prima. Quando il notaio sbaglia, il notaio, se può, rettifica, se non può, deve risarcire il danno. Quindi è una forma di garanzia e di assicurazione. Nino dalla provincia di Taranto, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno Nino. Complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Io c'ho un debito... E questo lo dicevo al dottore, buongiorno. Buongiorno. Un debito con la banca di 100.000 euro. Sì. E vorrei fare una parziale estinzione di un 20 o 30.000 euro da vedere. Sì. Io ho l'appuntamento col 5 novembre con la banca. È il momento per farlo tutto questo? Allora, guardi Nino, beh, questa domanda non le può rispondere il notaio, magari le può rispondere su quelli che potrebbero essere teoricamente i costi che vanno sostenuti per un'operazione di estinzione parziale del mutuo. Nino, io dico quello che farei io, se io li avessi, io il mio mutuo parzialmente lo estinguerei, ma questo prescinde dal momento di mercato, io lo farei sempre, quel fardello me lo vorrei tanto togliere, Nino. Notaio, però, insomma, di fronte ad un'operazione di questo tipo, il notaio non deve intervenire intanto. Il notaio non deve intervenire e il costo che deve scontare il cliente nei confronti della banca è zero. Quindi lei può estinguere parzialmente il suo mutuo, il suo debito residuo. Possono esserci delle condizioni che riguardano un importo minimo piuttosto che determinati periodi del mese in cui questa operazione non è possibile. La sua banca la consiglierà. Informerà sul la consiglierà, appunto, guardando insieme il contratto, vedrete, e quindi la consiglierà per il meglio qual è il momento migliore in cui fare questa operazione, anche per non scontare gli interessi. Non ci sono più interessi di penali, non ci sono più penali sull'estinzione anticipata, salvo per mutui vecchissimi, per i quali peraltro è intervenuta una convenzione con le quali le banche si erano impegnate a ridurre molto le penali per l'estinzione anticipata. Quindi tratti con la sua banca e vedrà che avrà ottime condizioni. Poi Nino, a meno che lei non voglia poi in questi giorni decida di non farlo e valutare che non le conviene tenersi magari questo accantonamento, però insomma sono impegni che richiedono tanti anni di sacrifici. Se uno può liberarsi anche della, come dire, del peso della rata mensile, se ha la liquidità per poterlo fare, Nino, le ripeto, però è una considerazione davvero del tutto personale. Andrea da Siracusa, benvenuto, e qua ci dà l'opportunità di andare all'interno di un tema che tra l'altro ha fatto anche dire cattive parole nei confronti dei notai negli ultimi due anni. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. E allora espongo un attimo in quattro parole quello che mi è capitato. Io mi ritrovo nella stessa situazione in cui si trovano tanti italiani come me. Sì. Avendo stipulato un mutuo con BNL nel 2005, a tasso variabile, poi purtroppo il tasso, sappiamo benissimo, l'Euribor è salito tanto, quindi la rata è aumentata, e sto provando a surrogare il mutuo con un'altra banca, con Credem. Sì. E allora, è stato fissato la data di surroga giorno 17 di questo mese, quindi è stata inviata raccomandata a BNL, che non si è presentata, pertanto con Credem e il notaio abbiamo fatto un atto bilaterale e non trilaterale così come era impostato inizialmente. Ora, a seguito di questo atto bilaterale, BNL, quindi il notaio, è andato con gli assegni emessi da Credem per estinguere il mutuo in BNL. BNL non ha rilasciato quietanza ai sensi del decreto Bersani. Certo. Sì, abbiamo capito. Questo affinché tutta la pratica si concludesse come a suo favore, Andrea, certo. Ecco, io vorrei un attimo capire, la mia domanda è questa: BNL è tenuta per legge a rilasciare quietanze ai sensi del decreto Bersani o si può rifiutare? Andrea, la ringrazio molto. Allora, notaio, beh, intanto complimenti per il notaio che comunque si è preso questo impegno e personalmente poi è andato a portare. Sì, infatti, esatto. La convenzione che abbiamo sottoscritto con i principali gruppi bancari. Mi pare che ci siano anche i signori di BNL? Mi pare di no. Aspetta, mi ero perso il foglio. Tende proprio a superare questo tipo di difficoltà. È evidente che la surroga è un momento di abbandono di una banca per trasferire il rapporto con un'altra banca. Volendo fare una metafora forse non del tutto pertinente, è come abbandonare un coniuge per costituire un gruppo, un nucleo familiare con un'altra persona. Quindi se c'era qualcuno che doveva protestare era banca, non protestare, se doveva contestare era la banca subentrante, dice no, non ti accettiamo, ma... Sì, però è evidente che quando nasce si accende la scintilla del nuovo rapporto tra il cliente e la nuova banca, la vecchia banca è nella posizione del coniuge tradito. E quindi è logico immaginarsi che non presti il massimo della collaborazione. E quindi i notai finiscono spesso col farsi carico di questa difficoltà proprio procedendo nel modo che ha detto l'ascoltatore. Anziché fare l'atto in un unico contesto con l'intervento di tutte e tre le parti, vecchia banca, nuova banca e cliente allo stesso tavolo. Che è la cosiddetta procedura interbancaria che ha stabilito anche l'ABI, mi sembra. Che è la procedura, sì, che è la procedura interbancaria, che è la procedura che è prevista nella nostra convenzione. Mm-hmm. Tutte le volte che la banca tradita, tra virgolette, fa resistenza, il notaio si deve sobbarcare l'onere di munirsi degli assegni e rincorrere la vecchia banca. A questo punto però la banca è tenuta a ricevere il pagamento, perché si tratta di una estinzione anticipata in surroga, ed è tenuta a dare la quietanza. Quindi la segnalazione di questo comportamento, che probabilmente non è della direzione centrale di BNL, potrebbe essere di un'agenzia, sì, potrebbe essere di un singolo funzionario in difficoltà, va segnalata semmai alla alla direzione di zona dell'area, al responsabile dell'area, e poi casomai alla direzione centrale. Al di là di questo, poi ci sono altri enti che se ne sono interessati. Possiamo ricordare l'antitrust. Esattamente, lì che volevo arrivare, che ha anche pesantemente sanzionato le banche per aver ostacolato le procedure della portabilità, ma ancora, insomma, molte filiali, perché è giusto, ho fatto bene a precisarlo, non ci sentono, e questa molto spesso è proprio questione di buona volontà dei singoli direttori delle singole filiali. Io ho imparato da questa trasmissione che, insomma, poi ovviamente infierire contro le banche è molto facile, ma qualche volta a livello locale proprio siamo su livelli africani, senza offendere gli africani ovviamente. Federico da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, io avevo un quesito per il notaio. Noi siamo in tre famiglie che l'anno scorso hanno deciso di vendere e di acquistare casa. Abbiamo comprato ognuno la propria casa, diciamo, e siamo tutti legati da un contratto preliminare che è scaduto scade qui adesso a fine ottobre. Il problema è che siamo tutti quanti legati all'ultimo che ha comprato la casa più piccola e dal quale dovrebbe partire poi la catena a ritroso per l'acquisto di ognuno di noi. Quindi Federico, mi faccia capire, lei ha comprato una casa da un'altra persona che praticamente l'ha messa in vendita, ma la persona ne ha contestualmente comprata un'altra da un'altra parte, non ho capito bene i passaggi. Allora, io ho comprato una bifamiliare, sì, e un'altra persona ha comprato... Vendendo la sua, quella dove stava già? No, io attualmente abito in una casa e ho comprato una bifamiliare, una casa più grande. Ho venduto la mia casa e sono legato ad un altro acquirente che dovrebbe comprarla sempre qui a fine mese, e questa persona altrettanto ha venduto la sua casa per acquistare la mia e sta cercando di vendere la sua. Ora siamo in questo, il problema è questo: noi siamo in tre famiglie e siamo tutti legati all'ultima persona che dovrebbe acquistare la casa, per poi partire a ritroso e fare tutti i rogiti. Federico, mi tolgo una curiosità: non la vende perché non abbassa un po' il prezzo? Sta chiedendo del prezzo esagerato, perché adesso insomma c'è anche questa parentesi da dover fare in una fase come questa. E questo è quello che dice l'agenzia. Ah, ecco. Allora, il problema appunto adesso è questo, però, che ormai i contratti preliminari che ci eravamo dati un anno sono tutti scaduti, scadono fra due giorni, vabbè. E, però siamo tutti in balia, adesso c'è qualcuno che avanza l'ipotesi di chiedere delle penali, c'è qualcuno che... insomma, il nervosismo è salito alle stelle. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Allora, Federico da Padova, insomma, hanno innescato, Federico con altre due famiglie, un meccanismo che si è inceppato, notaio De Stefano, perché l'ultimo anello della catena non riesce a vendere la sua casa e contestualmente non riesce a far procedere anche le altre operazioni di compravendita. La questione è, sono anche tra l'altro scaduti tutti i preliminari, nervosismo alle stelle, che si fa? Beh, si abbassa il prezzo intanto dell'ultima casa che deve andare in vendita e mi pare sì che... però gli altri anelli della catena non hanno nessun potere di intervento su quell'anello della catena che casomai sente stradito su un certo prezzo. No, qui bisogna dire che le catene sono una realtà con la quale ci si confronta tutti i giorni. Il modo giusto di affrontarle è una contrattualistica un pochino personalizzata. Non si può pensare di gestire queste situazioni utilizzando dei moduli da riempire mettendo una data. Probabilmente bisognava, e forse lo si può fare ancora, sedersi attorno a un tavolo e contrattualizzare la catena, cioè stabilire che... Azzerare la situazione? Azzerare la situazione no, perché chi ha spuntato un buon prezzo, ha fatto un certo investimento, forse anche emotivo, su una certa casa, non vuol perdere quell'occasione, però forse è disposto ad aspettare ancora 3 mesi e da lì in avanti gestire la situazione attraverso il contratto, per esempio stabilendo delle penali ragionevoli per il ritardo, commisurata al tempo del ritardo, che determinano un'influenza su quel soggetto eventualmente intestardito sul prezzo troppo alto. Se io anello, blocco la catena perché mi sono intestardito e non voglio scendere nemmeno di 100 euro, se ho una penale di 200 euro al mese, dopo 3-4 mesi probabilmente scendo. Insomma, in una di quelle consulenze preliminari che state suggerendo voi in questo momento, il nostro ascoltatore potrebbe fare una chiacchierata di questo tipo con un notaio, richiamare le parti ed eventualmente, non dico come dicevamo prima, riazzerare la situazione, ma insomma rivederla da meno dal punto di vista contrattuale, fino a quando non si sblocca la vendita dell'ultima casa. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Tra l'altro vedo alcuni ascoltatori che dicono non è vero che la penale di estinzione anticipata del mutuo è stata annullata, me l'hanno fatta pagare, mi dice un ascoltatore, non abbiamo detto questo, le penali di estinzione sono state cancellate per i mutui sottoscritti dal maggio del 2007, tutti quelli nuovi, per i mutui pregressi le penali sono state, a seconda del tipo di mutuo che si ha, riviste, ridotte, quindi facciamo anche attenzione quando poi sentiamo le cose che diciamo. Amedeo dalla provincia di Bergamo, forse era l'ascoltatore che aspetta un po' più tempo. Amedeo? Sì, eccomi. Eccoci. Pronto? Sì, ci siamo Amedeo, ci dica pure. Bene, buongiorno a lei signora Rosciani, al suo ospite. Sì. Evito i complimenti per non cadere nella monotonia. No, perché non abbiamo tempo, Amedeo, vada dritto al punto. Il mio problema, o meglio, il chiarimento è questo, si chiama accollo. Cioè, mio figlio che ha acquistato un appartamento dovrebbe rogitarlo a dicembre. Io mi sto interessato anche per questa fase dell'accollo, ho parlato con il funzionario della banca, il quale mi ha detto che l'accollo è più conveniente perché bla bla bla, ci sono meno spese notarili, eccetera, eccetera. Però poi mi ha prospettato un tipo di mutuo parlandomi di IRS, di Euribor, eccetera. La mia domanda è questa, secondo me l'accollo non è prendere un pezzo di mutuo che già esiste sull'impresa e... ma non ci vuole pagare gli interessi, Amedeo, su questo mutuo? Non ho capito. Non ci vuole pagare gli interessi su questo mutuo? Non è che le abbiano dato delle indicazioni strade. L'Euribor è il parametro che si aggancia a un mutuo a tasso variabile, l'ISC invece sì. Quello è... Sì, no, io cosa che di prendermi un pezzo di un mutuo che già esisteva con queste condizioni, eccetera. No, o sbaglio? Sì, notaio, sì, esatto, sì, ha ragione. Esatto, sì. La sua sensazione è corretta. Da quello che ho capito, suo figlio sta comprando una casa nuova da un costruttore. Esatto, sì. E questo costruttore, per realizzare l'intervento, ha fatto un mutuo. Ha già finanziamento in corso. Poniamo di qualche milione e poi, arrivata la fine della costruzione, ripartisce questo mutuo in quote, ipotizziamo 100.000 euro per ogni appartamento. Suo figlio ha l'opportunità di comprare l'appartamento pagando 100.000 euro prendendosi questo pezzo di mutuo. Questo pezzo di mutuo al momento del frazionamento viene calibrato normalmente sulle esigenze di quello che ormai è il promissario acquirente, certo, quindi, cioè suo figlio. Quindi dovrebbe avere già la durata, il tipo di ammortamento e casomai anche l'interesse che è stato modalità di calcolo di interesse che è stato pattuito. Quindi il costruttore potrebbe averlo, banalizzando, sottoscritto a tasso variabile, ma l'accollo può avvenire se io voglio la certezza a tasso fisso, quindi devo comunque modificare le condizioni del contratto. Allora, dipende da quanto si è protratto nel tempo il rapporto tra costruttore e acquirente. Se si arriva a costruzione appena iniziata, di solito c'è la possibilità di avere questa personalizzazione anche del mutuo. Però non è naturalmente detto. Dipende anche dalla banca. Se si arriva invece che la costruzione è finita da un pezzo, ormai i giochi sono fatti, le quote sono fatte. Tenga presente però che una volta accollato il mutuo, lei può sempre procedere attraverso la surroga. Certo, quindi, e insomma, quindi può, le opzioni ci sono. Oppure con la rinegoziazione, pattuendo con la banca le condizioni di ammortamento, di tasso di interesse e anche di tipologia di tasso di interesse che lei preferisce. L'ultima domanda è quella di Roberto da Firenze, al quale chiedo di essere veloce come la luce. Roberto, grazie molte. Sì, benissimo, la voce più bella della radio. La sua. Grazie Roberto. Signor Notaro, io sono proprietario del 50% dell'appartamento dove abito, però possiedo un altro 50% di un appartamento dove abita mio fratello. Mio fratello è nella stessa situazione mia, ha il 50 suo e il 50 mio. Domanda: se io cedo a mio fratello il mio 50 e lui il suo a me e ognuno diventa proprietario del proprio appartamento, del proprio, certo, per fare questa operazione sono donazioni, rogiti normali, ci sono agevolazioni di imposta di registro o di notine notarili o sono, è un rogito normale? Notaro De Stefano, che cosa deve fare Roberto? Deve andare da un notaio e portare i titoli di proprietà. Allora, nell'ipotesi in cui i due appartamenti che i due fratelli occupano provengano loro dalla ipotesi, dalla successione del papà o della mamma o di tutti e due i genitori, il modo per uscire da questa comproprietà incrociata si chiama divisione e sconta un'aliquota di registro favorevole che è l'1%. Se invece casualmente i due fratelli si trovano proprietari di due appartamenti che hanno comprato in tempi diversi, con modalità diverse, autonomamente l'uno dall'altro, allora si chiama permuta della quota di metà che sconta un'aliquota normale, se è prima casa il 3%, se non è prima casa il 10%, sul valore della quota di metà dell'appartamento che vale di più. Io gliel'ho detto velocemente, forse non è chiarissimo. Se si rivolge a un notaio troverà sicuramente il modo per sistemare e anche il modo situazione. È comunque conveniente. La pillola tratta dall'Instant Book del Sole 24 Ore, la grande crisi, domande e risposte. Benchmark, parametro oggettivo di riferimento costruito attraverso indici rappresentativi del profilo rischio-rendimento dei mercati e degli strumenti finanziari. È un indicatore che esprime i rischi connessi al prodotto di investimento sottoscritto da un risparmiatore ed è utile per valutare l'efficienza del prodotto di investimento. Diamo notaio De Stefano rapidamente, perché siamo in chiusura, agli indirizzi internet a cui si possono trovare tutte le informazioni sulla vostra iniziativa. È www.comprarcasa.it. Comprarcasa senza rischi.it. Comprarcasa senza rischi.it. E poi stasera l'incontro di Milano. Torneremo a disturbarla di nuovo per la sua preziosissima consulenza. Notaio, grazie ancora per grazie essere a voi. Stato è con stato noi. Un piacere. Salva Danaio torna domani, parleremo di libretti di risparmio. Da Deborah Rosciani, buona giornata. Salva Danaio.